flash mob. Gabriel si girava e rigirava tra le coperte nel suo letto. Si fermò a osservare l'alba di Amaltea che illuminava la vetrata della sua camera. Un attacco di malinconia? Lo schernì Raphael che apparve seduto ai piedi del letto. Nostalgia di un futuro mancato, rispose Gabriel. Raphael si sdraiò accanto a lui e Gabriel si voltò a suo favore. Raphael ha sempre avuto la capacità di scrutare nella profondità dei pensieri, non gli si può nascondere niente. Osservava Gabriel con tenerezza e lieve sarcasmo, provò a distrarlo. Come sta il tuo pupillo? Gli chiese riferendosi ad André. Si diverte, sorrise Gabriel arricciando il naso affettuosamente. Fece apparire due origami che porse a Raphael. Ti scrive sempre, disse Raphael aprendone uno. Lesse ad alta voce il messaggio di André. Non pensavo fosse così facile sparire. Si dice che se vuoi nascondere un albero lo devi nascondere in una foresta. Io sono l'albero nella foresta. Da quando ho lasciato Silvia non ho più fatto sapere niente di me, a nessuno. Solo ieri tramite il mio avvocato ho fatto pervenire una lettera per i miei genitori. Glielo dovevo, non potevo lasciarli così, senza neanche un saluto. Ho costituito una fondazione, finanziamo ONG, cerchiamo fondi e volontari. Stiamo realizzando centri di accoglienza per donne, per bambini, per i migranti, rifugiati, per chi vive in strada. È molto da fare, troppa violenza, troppe guerre, troppa povertà. Il periodo che ho dormito in stazione, tra tanta miseria un ragazzo in particolare mi ha commosso, era un giovane, bengalese, sporco, a piedi nudi che camminava avanti e indietro, un'andatura senza senso, girava a vuoto. Ho pensato al suo viaggio, a quanti chilometri aveva fatto dal suo paese, a quante speranze lo avevano spinto fino qui in Europa. Per finire così. Straziante. Alan, Rare e Marcel sono entusiasti dei miei nuovi progetti e senza che neppure glielo chiedessi si sono attivati per aiutarmi. Rare nella palestra dove lavora coinvolge tutti, allievi, parenti, amici, raccoglie pasti preparati a casa che distribuisce a chi ne ha bisogno, ha creato dei corsi gratuiti di autodifesa destinati esclusivamente alle donne. Io, Marcel e Alan organizziamo flash mob delle incursioni di musica e danza per stuzzicare la curiosità dei passanti. Per provare a farli riflettere sul messaggio che stiamo portando e sulle attività che finanziamo. Accidenti, esclamò piacevolmente sorpreso Raffaella aprendo il secondo origami per leggere il secondo messaggio. Da quando ho iniziato questa nuova vita ho scoperto di avere molti talenti, trovo facilmente lavoro, riesco sempre bene, imparo in fretta, come se avessi già fatto pratica in un'altra vita, o in mille altre vite. Sperimento situazioni sempre nuove, anche gli alloggi sono provvisori. Mi stabilisco dove trovo lavoro, nell'ultimo mese avevo una stanzetta nel retro dell'officina dove facevo le pulizie. Adesso mi sto occupando di un signore che non può camminare. Alan non capisce perché sto facendo questa vita da vagabondo quando potrei vivere comodamente, non gli so rispondere perché, ma so che per il momento è bene che sia così, magari tra un po' mi stancherò e mi pentirò di non aver continuato con Silvia. Ma non credo. La lettura di Raphael venne interrotta dalla voce di Abuya che chiedeva di entrare nella camera di Gabriel. Venite, venite, rispose Gabriel che riconobbe la risata di Xue, una bambina che sarebbe partita il giorno seguente. Appena entrati in camera, Xue lasciò la mano di Abuya e corse verso il letto lanciandosi su Gabriel ridendo fragorosamente. Ti voleva salutare prima di partire, disse Abuya. Gabriel prese al volo Xue e la fece giocare lanciandola verso l'alto e riprendendola fra le mani. Poi Xue si sdraiò tra Raphael e Gabriel. Verrai a trovarmi quando sarò sulla Terra? Chiese a Gabriel, ha detto che abiterò in Cina, concluse indicando Abuya. Certo che verrò, rispose Gabriel, verrò nei tuoi sogni, verremo tutti, anche lui, disse indicando Raphael. Anche tu? Chiese Xue guardando Abuya. Sì, rispose Abuya annuendo. Xue sorrise contenta e chiudendo gli occhi abbracciò Gabriel stringendosi a lui che le baciò la fronte. Mentre Raphael le accarezzò i capelli con il suo tocco gentile.